Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornata anche a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon. Il programma di questa giornata prevede una chiacchierata con Marco Pugačov, blogger, grande e accanito amante di fumetti, che fa una ricerca interessante sul segno, alla ricerca del segno perduto dunque, quei tanti fumetti che sono apparsi sul Pioniere ma senza firma. Lui l'ha cercato e ha cercato di dare un nome anche a queste firme anonime. Ci spiegherà con l'intervista di Morena Moretti il perché di questo anonimato e anche il suo rapporto col mondo dei fumetti. A seguire poi, come facciamo spesso interagendo le nostre trasmissioni con altri di Radio Città Fujiko, andiamo a riprendere una chiacchierata della trasmissione Valloon con Jacopo Frey, che interpella con Luca Gabrielli. Gianluca Gabrielli farà un focus sul passaggio del Rodari, autore di parte, quello del Pioniere, al Rodari invece che entra nelle scuole e quindi diventa un modello proprio per l'educazione dei nostri ragazzi. In ultimo parliamo di un nuovo progetto Novelist, This is Playlist, in realtà un'antologia musicale con 11 storie a fumetti nata dalla passione per la musica, principale filo conduttore, è una playlist, e composta dal contributo di diversi autori, Regular Size Monster, Benny, Roberto Dagnano, Lusa Smith Halby, Longo, Fat Gomez, Nino Rossetti, Luigi Ditelli, Thomas Kiku, Nuova Amiantici, che sono Alessandro Benassi, Marco Pollone e Federico Galeotti. La nostra Lorenza Gopparoni ha intervistato Lorenzo Ferrara dell'Equipe. E quindi cominciamo con l'intervista di Morena Moretti a Marco Pugačov alla ricerca del segno perduto. Marco, hai fatto una ricerca per capire se alcune firme, di chi fossero alcune firme. Io so che tu l'hai fatta per il giornale illustrato Il Pioniere, dove ci sono delle firme naturalmente per esteso, poi dopo, esatto, ci sono molti o pseudonimi oppure sigle e cose di questo genere. Intanto perché accade, si firmavano gli autori in questo modo, cioè in alcuni casi per esteso e in altri invece con nomi diversi, e poi anche che cosa hai scoperto? Il problema è che comunque quell'epoca si dovevano, perlomeno da moschettiere fino a noi ragazzi, i grossi problemi non c'erano, ma con il Pioniere di Cerdanebbe comunista tutti dovevano nascondersi, perché se no non trovavano lavoro da altre case editrici. Quella era una cosa normalissima. Infatti c'era chi lavorava anche per Vittorioso, se usciva su qualcosa sul Pioniere, mette un pseudonimo, qualcosa del genere, insomma. Comunque la ricerca che ho fatto era soprattutto per i primissimi moschettieri e noi ragazzi soprattutto. Per fare questa ricerca naturalmente tu sei un esperto, nel senso bisogna conoscere naturalmente l'esperto del tratto, bisogna conoscere magari il tratto e la mano. Riconoscere sì, l'occhio. Ci vuole in questo caso. Un tratto da un altro, come per esempio, che cosa differenzia l'autore che si firmava D'Angelo da quello dal disegnatore che c'era prima, che era il famoso disegnatore delle Puglie, un attimo, sfugge il nome. Il problema è che D'Angelo era molto più semplice, ma forse perché erano due disegnatori che facevano una matita e una macchina e si firmavano il colopsidomo pseudonimo D'Angelo, quindi ecco, tutto qui non è niente, tanto io l'ho fatto per un piacere, perché vedi, nel 73, cioè mio babbo andava sempre a Festa dell'Unità, e in una Festa dell'Unità trovai in vendita l'almanacco del Pioniere, che era il numero uno, sì, solo un numero solo, ma rimasi affascinato da Chiodino, è una cosa meravigliosa, ma anche Verdini, Chiodino di Berti era meraviglioso, ma anche Cipollino di Verdini, Era molto di Gordini, era molto accattivante, ma Chiodino è stato veramente bello, perché in Germania federale lo chiamavano il bambino di ferro, ma è bello. Poi c'è la fidanzatina che è un sacro Caruso, io ho sempre pensato che era la sorella, invece non è la sorella, è un'amichetta sua, praticamente è la fidanzata. Quindi tu hai incontrato il pioniere da piccolo, appunto in questa festa d'unità con l'almanacco, quindi te ne sei un po' innamorato. Con l'almanacco, sì, sì, mi sono subito innamorato. E ma poi non l'ho mai visto più. No, perché poi non usciva più. E è buono, quindi sono stato 3 anni, hanno fatto l'almanacco. E basta. Quindi certo. Io sono andato avanti con i miei Tex Wheeler, Jaguar, Black Macigno, Cuzzo, Deppe e Tirammolla, che lì mi ricordavo di Chiodino, che è una cosa meravigliosa, poi basta, finito. Sì. È un mondo da riscoprire. Tu hai questo blog che è molto bello, quindi tu fai ricerche di tutti i tipi, e però insomma ti dedichi in particolare al metodo, alla passione antica. Non so se mi vuoi anche dire quali sono altri personaggi dei fumetti che secondo te hanno fatto la storia anche di questo paese, dell'Italia? Ma in Italia è soprattutto Tirammolla, perché al di fuori dello squalo Disney ci sono un mare di personaggi, c'è per esempio la casa di Luis Bianconi, c'è i personaggi americani come Braccio di Ferro, o Felix il Gattino. Ma anche Zeppo, che è un diavolo, quello è completamente italiano come personaggio, è un diavolo buono, però è la Bianconi. Io invece ho sempre amato molto di più, non ho mai capito perché, Cuzzolo, Serafino, il vagabondo, il canguro vagabondo e Tirammolla. Sì. Poi ho scoperto anche loro questa storia di questi fumetti. Era l'aria di autori come Luciano Bottaro e Giorgio Buffi, che erano comunisti. Allora dico, ma c'è stato un... Io infatti gli Iacometti non l'ho mai sopportato. No, succede, anche perché qui a Macerata, sì, vista la sua giovinezza, lui è nato in Abruzzo e poi il padre della capostazione è fatto portare qui a Macerata. E tutti a dirmi, Iacometti è qua, Giovinetti è là, alla fine mi ero stufato questo Iacometti. E non mi piace, invece Tirammolla. Pepito che era da bambino di Portaro. Senti Marco, e oggi tu che cosa leggi come fumetti? E praticamente niente, che c'è ancora Tex Wheeler in edicola, però ne compro un numero al mese per inviarlo a un mio amico francese che ogni tanto mi scrive i testi per i nostri fumetti, i fumetti tipo Perio, cioè nel senso il creatore dei Puffi. Allora i Puffi sono stati creati all'interno della saga di Juan e Pirlui. E noi abbiamo creato dei personaggini, Angoran e Pipe Leto, sul modello di questi due personaggini. Au! Au! Tira! Molla! Molla! Tira! C'è chi tira e c'è chi molla! C'è chi molla e c'è chi tira! C'è chi tira, c'è chi molla. Tira, molla. Se qualcosa non gli gira, lui si allunga, poi si stira. Poi diventa lungo e non ritorna al mondo. Poi diventa una pallina piccolina. Come te. C'è chi tira, c'è chi molla. L'importante è stare a galla. C'è una cosa che devo imparare. L'importante è non mollare. Poi si va. Tira. Molla. Molla. Tira. E dopo Pugacev, la ricerca sul segno, passiamo la palla a Jacopo Fredi, la nostra trasmissione Vallun Storico, che intervista un insegnante, Gianluca Gabrielli, sul rapporto e sul valore dell'insegnamento di Gianni Rodari nelle scuole. Però abbiamo cercato di capire come mai, quale sia stato il passaggio che Gianni Rodari ha fatto da autore di parte, autore rosso, come ricordava il quotidiano L'Avvenire in questo 2020, ad autore universalmente riconosciuto come autore per l'infanzia. Scusate le molte ripetizioni. Uno degli elementi che secondo noi ha aiutato Gianni Rodari e la sua, soprattutto la sua produzione letteraria, a fare questo tipo di passaggio, oltre alla qualità dei suoi scritti, la bellezza e il coinvolgimento che dava a bambini e ragazzi che lo leggevano, sicuramente è stato anche la scuola. Per cercare di capire qualcosa sul passaggio dall'autore di parte a invece autore che poteva entrare a pieno titolo nelle classi, abbiamo contattato Gianluca Gabrielli. Gianluca Gabrielli è un maestro di Bologna e molti se lo ricorderanno proprio per questo, ma Gianluca Gabrielli è anche uno storico che si è occupato molto di scuola, si è occupato anche di colonialismo e razzismo in Italia, però ci può dire qualcosa sul racconto di Gianni Rodari e il mondo della scuola. Gianni Rodari è un autore proveniente dal mondo comunista che per un certo periodo è stato considerato un po' come il diavolo, e ricordiamo comunque che anche l'Avvenire nelle ultime settimane, come abbiamo detto prima, ricordava che Gianni era rosso, ma col tempo è diventato un autore chiave della letteratura per l'infanzia, il cui valore viene riconosciuto trasversalmente, e l'ipotesi che ci siamo fatti noi è che anche il passaggio a scuola, il passaggio quindi di Rodari come autore su cui lavorare, ha influito. E chiediamo a Gianluca Gabrielli come e quando Gianni Rodari è entrato nella scuola italiana. L'ingresso vero e proprio, possiamo dire, nelle antologie per la scuola primaria, per la scuola elementare, avviene attorno al 68. Attorno al 68 c'è il grande conflitto tra il vecchio e il nuovo che avviene sui libri di testo. Escono gli stupidari, no? Le raccolte di sciocchezze che compaiono nei vecchi libri di testo che non si sono aggiornati per nulla, perché è cresciuta una generazione di insegnanti dell'MCE che contesta frontalmente questo vecchio modo di fare scuola. E allora nascono nuove antologie. L'ingresso di Rodari è praticamente una cartina di tornasole, di schieramento. Chi ha almeno una o più testi di Rodari significa che si è schierato dalla parte degli innovatori, dalla parte di chi non vuole le paludate versioni delle antologie con la patria, con i principi generali, e vuole aprirsi alla fantasia, alla creatività, allo sguardo verso la realtà, però condito anche di ironia e di letture, insomma, divergenti, diciamo così. Quindi questo si vede proprio bene. Chi fa storia della scuola va a vedere i libri di testo e le letture che includono Rodari sono già del nuovo corso, sono già del post 68, comunque della trasformazione del 68. Io ricordo che io ho fatto gli anni delle magistrali tra il 78 e l'82, e ricordo che la nostra insegnante di tirocinio ci diede la grammatica della fantasia come uno dei testi da utilizzare. Io l'ho letta lì, no? E andavamo a fare tirocinio e quindi prove negli ultimi due anni di scuola, quindi 81-82, nelle scuole bolognesi. Ricordo ancora l'effetto ancora dirompente, ancora allora, scandalizzato, diciamo, dell'insegnante di classe quando noi tirocinanti proponemmo in questi incontri ripetuti una fiaba rovesciata, quindi una semplice fiaba rovesciata, quindi non una grande applicazione della grammatica della fantasia molto raffinata, ma semplicemente un rovesciamento della fiaba, un rovesciamento dei canoni, un attivismo molto maggiore dei bambini della classe e quindi l'imbarazzo di questo insegnante che vedeva che un insegnante magari di 50 anni, 55 anni, che però si portava dietro il vecchio modo di insegnare, quindi le vecchie antologie con cui probabilmente era cresciuto negli anni 60 e che portavano dietro anche un modo di insegnare ben determinato. Ecco Gianluca, io ti vorrei adesso, dopo aver parlato con Gianluca Gabrielli storico, parlerei anche con Gianluca Gabrielli maestro. Nell'arco di quest'anno si è parlato molto naturalmente di Rodari e del valore pedagogico che hanno anche i suoi testi, la sua riflessione pedagogica, diciamo, e il suo dialogo con il mondo dell'infanzia. Un aspetto che è stato messo in luce da molti è il fatto che alcuni dei suoi testi ormai risultino desueti, siano difficili da utilizzare, ma Rodari è pur sempre un autore che è molto presente nelle antologie per la scuola primaria. Quindi, secondo te, oggi Gianni Rodari come viene utilizzato e come può essere utilizzato? Dunque, io lo utilizzo e lo vedo ancora molto presente nelle antologie. Credo che il problema non sia tanto dei testi di Rodari quanto del contesto in cui questi, per forza di cose, vengono fruiti nella scuola di oggi. Cioè, nel senso, negli anni 70, quando 60-70, quando lui scriveva queste cose ed era in collegamento anche con gli insegnanti dell'MCE, il suo virare verso la fantastica, la fantasia, la creatività dei bambini, non era un virare che lasciava lo sguardo alla società muto, anzi, c'era poi un'altra parte che non faceva lui, evidentemente, ma che era quella dell'inchiesta, era quella della ricerca, era quella dell'apertura al territorio e dello sguardo al territorio, quindi al sociale. Questa cosa era sottintesa. Rodari, a mio parere, non se ne faceva carico perché altri se ne facevano carico. Lui era il narratore, era l'uomo della fantasia, ma poi c'erano anche gli uomini dell'apertura alla realtà. Pensiamo al rapporto con Mario Lodi, insomma, no? Che invece questo sguardo con la realtà, sulla realtà, lo apriva in maniera forte. Negli ultimi anni io credo che manchi un po' questa seconda dimensione e quindi anche i testi di Rodari rimangono un pochino appesi sul vuoto, sono slanci di fantasia per un'infanzia che però è infantilizzata rispetto al passato, mentre nel passato lo sguardo al sociale, a cosa accadeva, alla lettura del giornale, era qualcosa che stava a fianco nelle stesse antologie dove veniva antologizzato Rodari, c'era anche la lettura del giornale. Ecco, adesso è impensabile pensare a un'antologia delle scuole elementari dove ti insegnino a guardare la televisione, un telegiornale oppure a decodificare le informazioni che ti arrivano. No, il telegiornale è una cosa da adulti che si farà alle medie e per la scuola elementare si deve dispiegare la fantasia. Però questa fantasia qua rimane un pochino povera di società. Quindi non è Rodari, l'impressione, non sono i testi di Rodari che sono poco utilizzabili, è che a fianco di essi ci dovrebbe in sinergia funzionare un'apertura alla realtà e al sociale che, quando questi testi sono stati prodotti, esisteva nella scuola militante di cui lui faceva parte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Un buongiorno a Lorenzo Ferrare, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fugico. Ciao, grazie a tutti. Grazie mille. Siamo qua insieme per parlare del progetto This Is Playlist, un'antologia musicale a fumetti. Innanzitutto, da chi sarà composta questa playlist a fumetti? Esatto, allora, questo è un progetto che coinvolge diversi autori, molto più bravi di me, tra l'altro, perché ho avuto la fortuna di conoscerli alle varie fiere che, ahimè, quest'anno non sono mai venute a mancare a causa Covid. Ci saranno Nova, Albi Longo, Luca Negri, Regular Size Monster, Lucien Smith, Dano, che è Roberto Dagnano, Luigi Zitelli, Carlo Fett Gomez, Nico Rossetti, Thomas Kiku e lo staff di Amianto Comics che mi ha aiutato appunto a organizzare il tutto. Che cosa realizzeranno tutti insieme questi fumettisti e fumettiste? Ognuno di noi praticamente ha fatto una storia e dove il tema principale è la musica. L'idea era quella, insomma, di creare una sorta di playlist a fumetti e devo dire che è uscita molto bene perché comunque ci sono storie molto diverse tra loro, più che azzeccate, direi. Sono contento. Da che idea ti è venuta questo progetto, di portare avanti questo progetto? Allora, l'idea semplicemente è nata appena prima del lockdown e in realtà mi piaceva l'idea di rendere omaggio a tutti quei collegamenti che ci sono praticamente da sempre, no? Tra la musica e il fumetto. Infatti tanti autori a fumetti hanno collaborato con musicisti e viceversa. Nulla, ne ho parlato semplicemente con gli altri autori e mi sono reso conto da subito che è piaciuto molto anche a loro e basta, da qua è nata tutta la collaborazione. Avete anche attivato una raccolta fondi, un crowdfunding, com'è possibile esatto. partecipare? Sì, allora il crowdfunding è disponibile sulla piattaforma di Indiegogo e semplicemente basta salire sul sito www.indiegogo.com e scrivere This is Playlist oppure semplicemente collegarsi tramite la mia pagina o quella di Amianto Comics e abbiamo il link in bio, quindi la mia pagina è Lorenzo Ferrara _ 3 volte e oppure c'è quella semplicemente di Amianto Comics. Ho visto che ci sono anche dei pacchetti in cui non sono compresi solo appunto il libro a fumetti, l'antologia, ma anche altri gadget, chiamiamoli così. Esatto, anche perché Amianto Comics ha già anche fatto precedentemente, diciamo, un progetto del genere, sempre in crowdfunding, che si chiamava Bolide, e successivamente l'anno scorso, se non sbaglio, è uscito con questo progetto che si chiamava Amianto Blu, ed è possibile in alcuni perk acquistare entrambi i libri, quindi This is Playlist e Amianto Blu, oppure abbiamo fatto dei pacchetti per rendere un po' più originale il tutto, dove è disponibile sia la stampa che limitata, che la maglia fatta da Nova, che richiama un po' anche lo stile dei Metallica, e il pack, diciamo quello vinyl, che costa 120 euro, è disponibile solo in 5, adesso 4, perché mi è già stata venduta. Ma prima ancora tutti!